Sono Antonio Di Pietro. Scusate la domanda, ma che ci azzecca ubriacarsi o drogarsi prima di mettersi alla guida? Se lo fai, sei un assassino e meriteresti, anzi, te lo meriti proprio di andare in galera. Campagna a cura del governo. Ministero dei Trasporti.